Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di università, parliamo di imprese, parliamo di giovani. Lo facciamo in base al libro Startup, 25 anni di università e imprese a cura di Federico Visconti. Buonasera Federico Visconti. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Federico Visconti è rettore della LIUC, l'Università Cattaneo di Castellanza, professore ordinario di strategia aziendale, ha, diciamo così, messo insieme questo libro in cui ci sono due cose. Ci sono le storie di imprese create dai giovani che sono uscite dall'Università di Castellanza, ma insieme c'è anche la storia dell'università, un'università che compie 25 anni, che ha compiuto 25 anni e che continua a lottare insieme a noi, come si può dire, anzi è cresciuta negli ultimi anni. Tra l'altro nel libro c'è anche un interessante intervento di Vittorio Coda, che ha fatto la prolusione l'anno accademico lo scorso novembre. Quindi in questo libro si raccontano storie di imprese, storie di giovani, storie che nascono appunto dall'università. Come nascono queste imprese dall'università? Federico Visconti. Ma nascono in forme abbastanza differenti. Noi abbiamo abbracciato circa 25 storie che alcune sono più consolidate, quindi gli imprenditori hanno tra i 35 e i 40 anni, altre sono ancora alla fase embrionale e credo che nascono in settori diversi. Alcuni sono i settori tradizionali della nostra economia, altri evidentemente sono i settori collegati al digitale. Credo che nascano prima di tutto per una serie di humus, no? Per una serie di, come dire, di valori di imprenditorialità che sono diffusi per certi aspetti nelle aule e nel modo di lavorare della LIUC. E abbiamo voluto parlare dei giovani, ecco, avremmo potuto celebrare i nostri 25 anni in modi diversi, però abbiamo voluto parlare dei giovani. Nascono con anche degli errori, si riconoscono, certo, in queste storie imprenditoriali il disagio, diciamo le difficoltà tipiche di quelle che adesso chiamiamo startup, no? Che 15 anni fa chiamavamo .com e che 25 anni fa chiamavamo nuove imprese nei nostri linguaggi, però c'è dentro anche quel sano orgoglio, quel sano senso dell'intrapresa che un po' caratterizza il nostro paese. Ecco, nascono in forme diverse, diciamo. Ecco, e sono anche diverse, nel senso che non ci sono solo le .com, non ci sono solo le aziende che si basano su internet, ma ci sono anche aziende che sviluppano in maniera diversa dei settori tradizionali, quindi non c'è solo un'innovazione nel senso tecnologico, ma c'è anche un'innovazione in senso organizzativo, nel senso di trovare nuove strade, nuove forme produttive, nuove realtà, quindi è una realtà, diciamo così, un po' a 360 gradi quella che si offre ai giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro creandosi delle imprese. Ma è vero questo, alcune delle storie ruotano attorno a quello che è un po' l'avviamento, no, del nostro paese, quindi c'è qualche storia imprenditoriale attorno al food, quindi all'industria alimentare, c'è qualche storia attorno all'abbigliamento, alle scarpe. Ecco, dove però il tratto non è, come dire, il neoimprenditore che nasce negli anni 60 dall'azienda che sta già andando e si mette in proprio, ma evidentemente è un tratto di salto di modello, magari nei contenuti, l'idea delle scarpe vegane, per fare un esempio chiaramente un po' limite, piuttosto che nelle destinazioni geografiche, l'idea di vendere buoni cibi in Canada, quindi creare in qualche modo un collegamento di nicchia tra l'Italia e il Canada. E questo secondo me è a testimonianza del fatto che una certa ricchezza di idee ce l'abbiamo ancora. È chiaro che qua c'è un tema di dimensioni, anche l'azienda più grande è un'azienda di 3, 4, 5 milioni di euro, forse qualcosa di più, però credo che la testimonianza preziosa sia l'idea anche di mettere in discussione la old economy e trovare nuovi spazi. Questo secondo me è un tratto interessante. L'altro probabilmente, anche visto in una parte del libro ad hoc, è il tratto di imprenditoria femminile. Abbiamo 5 o 6 storie nel libro che nascono attorno a delle ragazze che hanno voluto percorrere una loro strada di innovazione imprenditoriale. Ecco, c'è tutto un capitolo infatti dedicato all'impresa femminile, ma forse un dividere per mettere in risalto il fatto che ormai non c'è un limite, non c'è nessuna separazione, le potenzialità femminili sono altrettanto, se non forse maggiori, di fronte a questa realtà tecnologica che richiede anche un po' di intuizione, un po' di capacità critica che magari le ragazze hanno più dei ragazzi, o sbaglio? Ma questo, ecco, questo poi bisognerebbe anche un po' magari dimostrarlo numeri alla mano, però è evidente che c'è un tratto di carattere, no? Di determinazione che io ho colto in queste storie. Ecco, le storie sono state scritte tutte da colleghi accademici dell'università, quindi sì, è stato un po' un modo anche di, come dire, di far lavorare insieme il gruppo dei docenti. Ecco, questa questione delle ragazze e delle signore è interessante perché c'è un dato di determinazione che si coglie, no? In questa narrativa un po', come dire, facile, ecco, non è un libro accademico, è un libro di storie. E dall'altra parte c'è questa dimensione che ogni tanto qua e là si percepisce nel testo del sogno, no? Che l'idea che si possa sognare un qualche cosa, ecco, non fare una cosa scontata, non fare una cosa praticamente alla portata di tutti, ma voler sognare. Anche questo è un tratto che credo in questo momento del nostro paese è importante. Ecco, non è un sogno banale, ecco, non è un sogno, come dire, senza i piedi per terra, però è un sogno di chi si mette in gioco, che ecco, mi sembra un dato importante. Ecco. È un sogno forse anche di chi conosce la realtà, vede la realtà, forse sono dei tratti anche dell'esperienza della vostra università, è quella di un contatto diretto con le imprese. Conoscendo le imprese si può far venire voglia di fare un'impresa, non solo di inserirsi in un'impresa. Ecco, questo, diciamo, ho anche un pochino l'onore e l'onere di esserne il rettore, è una caratteristica che ho conosciuto da poco, perché io sono qua da poco, ma che credo sia un elemento che caratterizza questa università. La prossimità con le imprese non è solo nella genesi dell'Ateneo, ma è anche nelle routine, nei meccanismi di funzionamento, no? Le forme di stage, le forme di tirocinio, la possibilità di avere più facilmente che in altre sedi dei professori a contratto che vengono dal mondo del lavoro, l'idea su cui stiamo lavorando anche di un nostro laboratorio per percepire la fabbrica digitale, insomma idee di questo genere, abbiamo chiamato IFAB, idee di questo genere trasmettono un modo, no, di lavorare nelle aziende e nelle istituzioni attorno alle aziende che indubbiamente è un po' un binario, no, per questo tipo di mestiere, che è il mestiere dell'imprenditore, è un binario privilegiato per molti aspetti. Ecco, c'è un tema che si ripercorre spesso negli ultimi tempi, è quello dei giovani che scappano all'estero, magari si laureano in Italia, acquisiscono grandi competenze in università e poi non trovano in Italia possibilità di espressione o possibilità di lavoro e scappano all'estero. Ecco, questa strada di crearsi l'impresa può essere un'alternativa alla fuga verso l'estero, alla ricerca di altri orizzonti, ovviamente guardando gli altri orizzonti come qualcosa di definitivo. Se vanno all'estero a fare delle esperienze e poi tornano, mi sembra che siamo tutti contenti. Federico Visconti. Dunque, credo che la domanda forse meriterebbe quasi una prolusione, non vorrei, diciamo, affaticare troppo i nostri ascoltatori, però è evidente che il problema è sul tavolo. Dal punto di vista nostro ce ne rendiamo conto perché uno degli elementi di attrazione della LIUC è anche la possibilità di fare esperienza all'estero, quindi negli Erasmus, negli exchange, come dire, si crea, certo, un qualche elemento differenziale e si prova a lavorarci sopra. Dall'altra parte credo che la questione sia sistemica, cioè il problema è un paese che vive una fase un po' affaticata, la burocrazia che affatica le aziende, l'estero che è più in movimento di noi o comunque una certa esterofilia che in questo momento ci sta caratterizzando. Però se uno mette insieme 25 variabili della questione e comunque non risolverebbe l'equazione, esperienze di questo genere sono un modo di lavorare attorno al problema, perché l'imprenditorialità è una delle forme con cui si sta rispondendo non solo in Italia ai problemi dell'occupazione. Credo che sia un problema anche degli Stati Uniti. Io a una convention di MBA qualche anno fa sentivo un MBA che lavorava all'estero e diceva: è impossibile pensare che le grandi multinazionali creino in prospettiva così tanti posti di lavoro per le strutture organizzative come ne abbiamo creati in passato. Quindi l'idea dell'intrapresa è un'idea in questa economia a geometria molto variabile che va coltivata. Noi ce l'abbiamo un po' nel sangue come paese, è evidente che non può essere l'imprenditoria bravissima di 25-30 anni fa, le condizioni di contesto sono completamente diverse. E comunque al modello cui lei faceva cenno, come dire, dell'andare per tornare, io credo che sarebbe un bellissimo modello, perché è una grande ricchezza aprirsi, confrontarsi, portare a casa esperienze e poi rimetterle in circolo nei propri territori. se devo dirla tutta, a volte sono anche i territori che sono, o comunque questo paese che è un pochino resistente al cambiamento, ecco, quindi magari anche dei ragazzi che hanno preso idee da altre parti poi faticano a scaricarle qui in mezzo, diciamo, a una cultura che non è proprio normalmente orientata al cambiamento. Io credo che il nostro paese da questo punto di vista abbia tantissime risorse, ma non proprio, diciamo, un'apertura strutturale sistematica al cambiamento. Questa è una sfida, certo, un po' per tutti noi, no? Per chi fa il suo lavoro, per chi fa il mio lavoro, eccetera. Ecco, comunque è anche importante vedere dei giovani che vanno all'estero e che portano all'estero le capacità italiane. Ah, tra l'altro, tra queste 25 storie sono anche delle storie di persone che, sì, hanno sviluppato all'estero. Per esempio in Romania c'è, cioè, chi ha creato un'impresa e con questa impresa sta cercando anche di far crescere il contesto in cui vive, quindi è certamente qualcosa di positivo, perché ormai dobbiamo vivere in una dimensione globale. Allora, Federico Visconti, per concludere, guardando un po' in avanti, quali saranno i prossimi 25 anni di questa esperienza dell'Università di Castellanza, l'Università Cattaneo? Senta, io posso rispondere, diciamo, per l'obiettivo del piano strategico, che è sui 2-3 anni, quindi certamente di continuare un bellissimo tracciato che è nelle TNA della LIUC e di arricchirlo di nuove dimensioni, sempre più vicine alle imprese, perché senza le nostre imprese questo paese non ha ancora un modello alternativo, e dall'altra parte sempre comunque aperti all'internazionalizzazione, perché questo è un percorso obbligato, non solo generazionale, ma credo anche sociale ed, certo, economico. Tenga conto, e chiudo proprio con questo esempio, che il nostro studente che è cresciuto in Romania, il know-how che ha accumulato lo sta riversando in opportunità imprenditoriali in Italia, quindi è un bellissimo caso probabilmente di chi comincia a costruire da una parte e prosegue dall'altra. Ecco, avremo bisogno probabilmente in futuro anche di modelli di questo genere, tenuto conto che noi non stiamo esportando oggi solo cervelli, diciamo, accademici, ecco, stiamo esportando ragazzi di valore in tanti ambiti, questa è la cosa che un pochino deve preoccupare, ecco. Certamente, grazie a Federico Visconti di questo colloquio, di questo libro, Startup, lo ricordo, 25 anni di università e imprese, Guerini Next come editore, 150 pagine per 15 euro, la storia appunto di 25 anni dell'Università Cattaneo, di cui Federico Visconti è rettore, e 25 casi di giovani che hanno trovato, creando nuove imprese, un loro futuro, almeno una via per il loro futuro. Grazie ancora a Federico Visconti, così come ringrazio Carmelo Loricella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.